Con Alice Ferrigato di Ahora Film per parlare dell'uscita in sala di Paolina di Santiago Mitre dal 22 novembre. Alice, ben trovata. Ben trovati a voi, buongiorno. Lo presentiamo questo film? Sì, allora, è la storia di questa donna che praticamente lei ha una carriera già avviata di avvocato, però decide di aderire a un progetto umanitario in un paesino tra il confine tra il Paraguay e l'Argentina. Ovviamente ha tutti contro, soprattutto il padre, perché dice hai una carriera già avviata, perché fare questo? Lei invece è proprio decisissima e parte alla fine per questo progetto. Lei in questo progetto inizia come maestra in questa scuola e praticamente una sera tornando a casa viene aggredita da una banda di ragazzi, tra cui in questa banda è compresa tre dei suoi studenti, sono comprese i suoi studenti. La cosa di questo film molto interessante è che sarà proprio la decisione che prenderà poi dopo la violenza di non denunciare i suoi aggressori e rimanendo anche incinta dopo questa violenza decide di tenere il bambino. Ecco, questo è un po' più o meno il film. Ok, cosa sappiamo anche di Santiago Mitre alla regia, altri suoi lavori? Santiago Mitre, diciamo, questo è il suo secondo film, Paolina, Ok. però anche nell'Estudiante, che è il suo primo Lo film, ha studente. cercato di portare sia, diciamo, il mondo sociale dell'Argentina, quindi anche politico-sociale dell'Argentina, e sia degli aspetti delle personalità nostre, insomma. Tipo nell'Estudiante racconta la solitudine di questo studente, di cui lui praticamente a differenza di Paolina, ecco, questi sono due personaggi completamente differenti. Lui non si pone domande sulla società, non si pone domande del perché succedono alcuni avvenimenti nel mondo, mentre lei, Paolina, è più interiore e cioè, si pone sempre delle domande. È in continuo porsi domande, è un continuo pensare alla società anche quando viene aggredita, per dirti, lei intuisce che gli aggressori non meritano la prigione perché sarebbero trattati peggio ancora di come già vengono trattati, perché sono ragazzi comunque allo sbando. Oh, è una coproduzione internazionale del 2015. Sì, esattamente tra Argentina, Brasile e Francia. Senti, quali sono gli aspetti di questo lavoro che più ti hanno convinto? Allora, guarda, il film io l'ho proposto a Marco Pollini, che è il direttore di Aura Film, proprio partendo dal semplice trailer, guardando il trailer, perché essendo appassionata di cinema latinoamericano, seguo anche i premi Phoenix, il premio Platino, che sono i premi più importanti del mondo cinematografico latinoamericano. E proprio nell'edizione del 2016 mi è capitato di vedere questo trailer e me ne sono innamorata subito, al di là del conoscere la storia. E quindi poi io ho insistito anche nel volerlo portare qui in Ahora perché è un film che comunque ha un certo rilievo, è un particolare anche per appunto, come ti dicevo prima, per la scelta che fa la protagonista, nonostante una decisione che può essere avversa per molte donne, lei comunque è decisa a portarla avanti contro tutto e tutti. All'estero che risultati ha ottenuto? Beh, è un film che ha vinto numerosissimi premi. A Cannes, per esempio, nel 2015 ha vinto la Settimana della Critica, a Torino ha vinto come miglior sceneggiatura e miglior attrice. Poi Dolores Fonzi, che è l'attrice protagonista, ha vinto un sacco di premi, tra cui appunto il premio Phoenix miglior attrice, il premio Platino miglior attrice, anche nei premi, diciamo, argentini ha vinto un sacco di premi tra la regia, attrice, sceneggiatura. No, no, e mentre per quanto riguarda i risultati, diciamo, in sala, noi sappiamo che in Europa è uscito solo in Francia e in Germania e che comunque, insomma, ha avuto un buon riscontro anche lì, ecco. Ok. Che uscita sarà? Allora, noi puntiamo a un'uscita na sia nazionale sia prolungata poi anche nel Cineforum, quindi non cerchiamo anche che sia un po', cioè, come per esempio mi pare che sia successo con il Presidente, che è l'altro film di Mitre che è uscito a fine ottobre, di puntare soprattutto sulle grandi distribuzioni, invece noi puntiamo proprio su piccoli cinema e una distribuzione più prolungata nel tempo, anche per le scuole. Certo. Alice, ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più rispetto all'uscita e alle sale? Beh, noi ci trovate su Facebook, basta digitare Aora Film e ci trovate, poi potete digitare www.aorafilm.com, che è il nostro sito. Siamo anche su Instagram, anche lì basta digitare Aora Film. Ecco, questi sono più o meno i nostri contatti. Bene, ricordiamo l'uscita in sala del film Paolina di Santiago Mitre. Dal 22 novembre al cinema, un saluto e un ringraziamento ad Alice Ferrigato di Aora Film che lo distribuisce. Alice, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille a voi e se posso dire un'ultima cosa, volevo fare un ultimo complimento ai nostri doppiatori che hanno reso questo film ancora più incisivo, ancora più emozionante di quanto è già. Bene. Quindi bene. Ringrazio tutte le voci che hanno partecipato a questo film. Grazie. Ciao. Buona giornata e buon lavoro.